Così gira il cerchio della vita da un giorno all'altro. Mrs. Gibson trovò le opportunità di incontro alle torri, molto più eccitanti per lei delle visite di Roger o di quelle più rare di Osborne Hamley. Cinzia nutriva un'antica antipatia per la grande famiglia che aveva dato così tanta importanza a sua madre e così scarsa a lei, e che lei reputava in certa misura la causa per la quale aveva visto la mamma così raramente nei giorni in cui da ragazzina bramava affetto senza trovarne. Inoltre Cinzia sentiva la mancanza del suo schiavo, sebbene non si curasse di Roger neanche la millesima parte di quanto lui pensasse a lei. Eppure non aveva trovato sgradevole avere un uomo che rispettava in pieno e che gli altri uomini in generale rispettavano, soggetto al proprio occhio, lieto officiante di ogni desiderio quasi inespresso. Una persona per la cui considerazione tutte le sue parole erano perle o diamanti, tutte le sue azioni grazia divina e nei cui pensieri ella regnava suprema. Non era influenzata da alcuna modesta inconsapevolezza, eppure non era vanesia. Sapeva di tutta quell'adorazione e quando per via delle circostanze non la ricevette più, ne sentì la mancanza. Il conte e la contessa, Lord Hollingford e Lady Harriet, i nobili e le nobildonne in generale, le livree, i vestiti, le borse di selvaggina e le voci di ricevimenti a cavallo erano nulla per lei, se paragonate all'assenza di Roger. E tuttavia non lo amava. Molly sapeva che Cinzia non lo amava e si arrabbiò con lei ancora e ancora mentre questa convinzione si faceva viva con forza dentro di lei. Molly non conosceva i propri sentimenti. Roger non nutriva alcun interesse travolgente a proposito di quali potessero essere. Al contrario, il suo stesso alito di vita sembrava dipendere da ciò che Cinzia sentiva e pensava. Perciò Molly scrutava attentamente dentro il cuore dell'amica e sapeva che Cinzia non amava Roger. Molly avrebbe potuto urlare per appassionato rimpianto al pensiero dello svalutato tesoro che giaceva ai piedi di Cinzia e sarebbe stato un rimpianto del tutto altruista. Si trattava dell'antica e fervida tenerezza. «Non desiderare la luna, mia cara, perché non te la posso dare. L'amore di Cinzia era la luna che Roger bramava e Molly vedeva che era lontano, irraggiungibile». Altrimenti lei ce l'avrebbe messa tutta per consegnarlo a Roger. «Io sono sua sorella», soleva ripetersi. «Quel vecchio legame non si è estinto, anche se lui è troppo preso da Cinzia per parlarne adesso. Sua madre mi chiamava Fanny. Era quasi come un'adozione. Devo aspettare e osservare e vedere se posso fare qualcosa per mio fratello». Un giorno Lady Harriet venne a far visita alle Gibson, o meglio a Mrs. Gibson, già che quest'ultima manteneva la sua vecchia gelosia per chiunque a Hollingford si ritenesse in confidenza con la grande famiglia o minimamente a conoscenza dei suoi piani. Mr. Gibson avrebbe potuto saperne altrettanto, ma era professionalmente vincolato dal segreto. Fuori casa, la donna reputava Mr. Preston un rivale ed egli ne era consapevole e si dilettava a tormentarla fingendo di essere al corrente dei progetti familiari e dei particolari di questioni di cui lei non sapeva nulla. Tra le mura domestiche, Mrs. Gibson era evidentemente gelosa del fatto che Lady Harriet si fosse affezionata alla sua figliastra e si sforzava di disporre silenziosi ostacoli sulla strada di incontri troppo frequenti tra le due. Tali ostacoli non erano dissimili allo scudo del cavaliere della vecchia storia, solo che anziché i due lati di tale scudo, uno d'argento e l'altro d'oro, offerti ai due viandanti che si avvicinavano da quartieri opposti, Lady Harriet vedeva i raggi lisci, dorati e scintillanti, mentre Molly percepiva solo il piombo pesante e grigio. A Lady Harriet fu detto: «Molly è uscita. Le dispiacerà moltissimo non incontrarvi, ma è stata costretta ad andare a trovare alcune vecchie amiche della madre, che non può trascurare, come ho affermato. La costanza è tutto. E Stern, credo, che dice non dimenticare gli amici tuoi e quelli di tua madre. Ma, mia cara Lady Harriet, voi vi tratterrete finché non sarà tornata, non è vero? So quanto le siete affezionata, in effetti, con un velo di superficiale giocosità. A volte dico che venite qui più per vedere lei che per la vostra povera vecchia Claire». A Molly era stato comunicato in precedenza: «Questa mattina viene Lady Harriet. Non posso ricevere nessun altro. Dia Maria che riferisca che non sono in casa. Lady Harriet ha sempre così tanto da raccontarmi. Conosco tutti i suoi segreti sin da quando aveva 12 anni. Voi due ragazze dovete stare lontane. Naturalmente chiederà di te per semplice cortesia, ma se entrassi ci interromperesti solamente, come hai fatto l'altro giorno. E guardandola in viso. Non mi piace affatto dirlo, ma l'ho trovato una cosa davvero presuntuosa. Maria mi ha detto che aveva chiesto di me, spiegò Molly con semplicità. Proprio presuntuosa, continuò Mrs. Gibson, senza prendere atto dell'interruzione, se non per rafforzare le parole per cui la breve frase di Molly era stata intesa come correzione. Penso che stavolta dovrò proteggere sua signoria dalle possibilità di una simile intrusione, assicurandomi che tu sia fuori casa, Molly. Faresti meglio ad andare a Holly Farm a parlare di quelle susine che ho ordinato e che non sono mai state mandate. Ci vado io, si offrì Cinzia. È una camminata molto lunga per Molly. Ha avuto un brutto raffreddore e non è in forze come 15 giorni fa. A me piacciono moltissimo le lunghe passeggiate. Se vuoi che Molly stia fuori dai piedi, mamma, mandala dalle signorine Browning. Loro sono sempre felici di vederla. Non l'ho mai detto di non volere Molly fra i piedi, Cinzia, replicò Mrs. Gibson. Esprimi le cose in modo così esagerato. Dovrei quasi dire in modo così volgare. Sono certa, Molly, amor mio, che tu non avresti mai potuto fraintendermi così. Dipende solo dalla di Harriet. Non penso di riuscire a camminare fino a Holly Farm. Papà porterà loro il messaggio. Non c'è bisogno che ci vada Cinzia. Bene, sono l'ultima persona al mondo a voler testare le forze di chiunque. Preferirei non vedere mai più alcuna composta di susine. Immagina di andare a trovare Miss Browning. Potresti stare da lei per un bel po'. Sai che le piacciono le visite lunghe e informarti da parte mia sul raffreddore di Miss Febe. Ecco, erano amiche di tua madre, mia cara, e per niente al mondo vorrei che la vostra antica amicizia si spezzasse. Come sai, il mio motto è la costanza sopra ogni cosa e la memoria dei morti deve sempre essere rispettata. E allora, mamma, io dove devo andare? Chiese Cinzia. Anche se Lady Harriet non si interessa a me quanto a Molly, anzi direi proprio il contrario in verità. Potrebbe comunque chiedere di me ed è meglio che io me ne stia al sicuro, alla larga. Vero, confermò Mrs. Gibson, meditabonda e inconsapevole dell'intento satirico delle parole di Cinzia. È molto meno probabile che chieda di te, mia cara. Quasi penso che potresti restare a casa oppure andare a Holly Farm e voglio davvero quelle susine. Altrimenti potresti restare qui in sala da pranzo, capisci? Così da poter essere pronta a decorare per bene la tavola se le prendesse il vezzo di trattenersi per pranzo. È molto volubile, la cara Lady Harriet. Non vorrei pensasse che i nostri passi sono in qualche modo differenti perché c'è anche lei. La semplice eleganza, le dico, è sempre ciò a cui puntiamo. Però tu potresti tirar fuori il servizio migliore, disporre qualche fiore e chiedere alla cuoca cosa c'è per cena che potremo consumare a pranzo e rendere tutto molto grazioso, estemporaneo e naturale. Credo sia meglio che tu stia a casa, Cinzia. Dopodiché potrei andare a prendere Molly da Miss Browning nel pomeriggio, vedi, e voi due potreste fare una passeggiata insieme. Dopo che Lady Harriet se ne sarà andata. Capisco, mamma. Vattene, Molly. Sbrigati, altrimenti Lady Harriet potrebbe arrivare e chiedere di te come di mamma. Io baderò bene a dimenticare dove stai andando, così che nessuno saprà da me dove ti trovi e risponderò per la perdita di memoria di mia madre. Bambina, che assurdità dici? Mi confondi completamente con il tuo essere così sciocca, fece Mrs. Gibson, nervosa e infastidita come al solito dalle frecciatine lillipuziane che Cinzia le lanciava. Fece ricorso alla sua usuale debole rappresaglia, accordare un qualche favore a Molly, e questo non ferì minimamente Cinzia. Molly cara, c'è proprio un vento freddo anche se la giornata sembra così bella. Meglio che tu prenda il mio scialle indiano, tra l'altro starà benissimo con il tuo abito grigio, scarlatto e grigio. Non lo presterei a chiunque, ma tu sei così attenta. Grazie, disse Molly, e lasciò Mrs. Gibson abbandonata e incerta sul fatto se la sua offerta sarebbe stata accettata o meno. A Lady Harriet dispiacque non trovare Molly perché le era affezionata, ma dicendosi perfettamente d'accordo con i dogmi di Mrs. Gibson in merito alla costanza e ai vecchi amici, ella non trovò pretesti per commentare sulla vicenda, bensì prese posto su una sedia bassa con i piedi appoggiati al parafuoco. Il detto parafuoco era di acciaio brillantissimo e severamente proibito a qualunque piede della famiglia o dei plebei. In effetti, assumere quella posizione era considerato maleducato e volgare. «È giusto, cara Lady Harriet, non potete sapere quale piacere sia per me accogliervi presso il mio focolare nella mia umile dimora». «Umile? Beh, Claire, questa è una sciocchezza, chiedo scusa. Non definisco questo bel salottino la stanza di un'umile dimora. È pieno di comodità e di tutte le belle cose che può contenere una stanza di queste dimensioni». «Ah, come dovete trovarla piccola. Io stessa all'inizio mi sono dovuta abituare». «Beh, forse la vostra aula scolastica era più grande, ma ricordate com'era spoglia e vuota di tutto se non di banchi, panche e tappetini». «Davvero, Claire, sono assolutamente d'accordo con mamma, che ripete sempre che avete scelto proprio bene. E Mr. Gibson, poi, che uomo gradevole e ben informato». «Sì», acconsentì la moglie lentamente, come se non le andasse di rinunciare subito al suo ruolo di vittima. «È molto gradevole, molto, solo che lo vediamo così poco. E naturalmente torna a casa stanco e affamato e non ha voglia di parlare con la sua famiglia, solo di andare a dormire». «Su, su», fece Lady Harriet. «Adesso è il mio turno. Abbiamo sentito le lamentele della moglie del dottore, ora ascolterete le lagne della figlia di un pari. Casa nostra è così traboccante di visitatori e oggi sono letteralmente dovuta venire da voi per un po' di solitudine». «Solitudine?» esclamò Mrs. Gibson. «Preferireste stare sola?» aggiunse un poco addolorata. «No, cara sciocchina, la mia solitudine richiede un'ascoltatrice alla quale io possa dire: come dolce la solitudine, ma sono stanca delle responsabilità dell'intrattenimento. Papà è così generoso e chiede a tutti gli amici che incontra di venire a farci visita». «Mamma è davvero invalida, ma non vuole rinunciare alla sua reputazione per la salute perché ha sempre considerato la malattia una mancanza di autocontrollo. Così si esaurisce e si preoccupa per quella folla di gente che se ne sta lì a bocca aperta ad aspettare un qualche genere di divertimento. Proprio una covata di uccellini nel nido. Allora io devo fare da mamma uccellina e ficcare bocconcini nei loro gialli becchi coriacei per scoprire che li hanno ingoiati prima che io sia riuscita a pensare a dove trovarne altri. Oh, è intrattenimento nel senso più lato, letterale e triste del termine. Perciò stamattina ho raccontato qualche bugia e sono venuta qui per avere un po' di quiete e il conforto della lamentela». Lady Harriet si gettò all'indietro sulla sedia, sbadigliando. Mrs. Gibson prese una mano di sua signoria in modo dolce e comprensivo e mormorò: «Povera Lady Harriet», e poi fece le fusa affettuosamente. Dopo una pausa, Lady Harriet sobbalzò e disse: «Quando ero una ragazzina, vi consideravo arbitro della morale. Ditemi, ritenete sbagliato raccontare menzogne?» «Oh, mia cara, come potete porre certe domande?» «Certo, è sbagliatissimo, proprio malvagio, penso di poter dire. Ma so che stavate solo scherzando quando avete detto di aver raccontato delle bugie». «No, no, non scherzavo. Ho raccontato le frottole più grosse che possiate voler sentire. Ho detto che ero obbligata a recarmi a Hollingford per delle commissioni, quando la verità è che non c'era alcun obbligo, solo un insopportabile desiderio di liberarmi di qui dei miei ospiti per un'ora o due. E il mio unico impegno era venire qui, sbadigliare, lamentarmi e oziare a mio piacimento. Credo davvero di essere scontenta per aver raccontato bubole, come dicono i bambini». «Ma, mia cara Lady Harriet», ribatté Mrs. Gibson, un po' perplessa dell'esatto significato delle parole che stavano tremando sulla sua lingua, «sono certa che pensavate di intendere ciò che avete detto quando l'avete detto». «No, non è così», disse Lady Harriet, «e inoltre, se non è così, la colpa è delle persone fastidiose che vi hanno messa in questa situazione. Sì, è di certo colpa loro, non vostra. E poi conoscete le convenzioni sociali, come sono fastidiose». Lady Harriet tacque per un paio di minuti, poi chiese: «Ditemi, Claire, voi qualche volta avete raccontato bugie, no?» «Lady Harriet, penso dovreste conoscermi meglio, ma so che non intendavate questo, cara». «Sì, sì, dovete aver raccontato qualche bugia bianca, comunque. E come vi siete sentita dopo?» «Mi sarei sentita malissimo se l'avessi fatto», Sarei morta per il senso di colpa. La verità, tutta la verità, è nient'altro che la verità. Mi è sempre sembrata una frase bellissima. Poi però nella mia natura ho molta rigidità e nella nostra sfera di vita ci sono così poche tentazioni. Se siamo umili, siamo anche semplici e liberi dall'etichetta. Dunque, mi rimproverate molto? Se qualcun altro mi redarguisse, non sarei così infelice per ciò che ho detto stamattina. Io non vi ho mai rimproverata, neanche nel profondo del mio cuore, cara Lady Harriet. Redarguirvi proprio sarebbe presunzione da parte mia. Penso che mi sceglierò un confessore. E non sarete voi, Claire, perché siete sempre stata fin troppo indulgente con me. Dopo una pausa aggiunse: Potete offrirmi il pranzo, Claire? Non intendo tornare a casa prima delle 3. Le mie commissioni richiederanno tempo fino a quell'ora, come ho debitamente comunicato alle torri. Certo, ne sarei deliziata, ma sapete che siamo molto semplici nelle nostre abitudini. Oh, voglio solo un po' di pane e burro e magari una fettina di carne fredda. Non dovete prendervi alcun disturbo, Claire. Forse per voi questo è il pasto principale. Lasciate che mi sieda fra voi come una della famiglia. Sì, certo, non farò alcun cambiamento. Sarà così bello avervi con noi a condividere il nostro pasto familiare, Lady Harriet. Ma noi ceniamo tardi, ora facciamo solo uno spuntino. Come sta scemando il fuoco, davvero? Mi sto dimenticando di tutto nel piacere di questo tête-à-tête. Così la donna suonò due volte il campanello, molto distintamente e con una lunga pausa fra le due scampanellate. Maria entrò portando del carbone. Ma il segnale fu compreso da Cinzia come la stanza di Apollo dei servi di Lucullo. La coppia di pernici pensate per la cena fu immediatamente messa sul fuoco. Fu tirata fuori la porcellana più bella e la tavola fu decorata con frutta e fiori, grazie alla solita abilità e al gusto di Cinzia. Così, quando fu annunciato il pasto e Lady Harriet entrò nella stanza, ella non poté fare a meno di pensare che le scuse della padrona di casa erano del tutto superflue e si convinse ancora di più che Claire aveva fatto un'ottima scelta. Cinzia ora si unì a loro, bella ed elegante come sempre, ma in qualche modo non catturò l'attenzione di Lady Harriet. Fu notata da lei solo in qualità di figlia di sua madre. La sua presenza rese la conversazione più generica. E Lady Harriet riportò diverse notizie, nessuna delle quali particolarmente importanti per lei, ma che aveva appreso dalla cerchia di visitatori assembrati alle torri. Lord Hollingford avrebbe dovuto essere tra noi, disse tra le altre cose. Ma è obbligato, o si immagina obbligato, che è lo stesso, a restare in città per questa eredità Crichton. Un'eredità? A beneficio di Lord Hollingford? Ne sono lieta. Non abbiate fretta di esserne lieta, per lui non è altro che un disturbo. Non avete sentito di quel ricco ed eccentrico Crichton che è morto qualche tempo fa, infiammato dall'esempio di Lord Bridgewater? Immagino, costui ha lasciato una somma di denaro in mano degli amministratori fiduciari, mio fratello è uno di loro, perché mandino in spedizione scientifica un uomo con un migliaio di validi titoli, allo scopo di riportare qui esemplari di fauna di terre lontane e così creare il nucleo di un museo che si chiamerà Crichton Museum, perpetuando il nome del suo fondatore. La vanità dell'uomo assume forme così varie, a volte stimola la filantropia, a volte l'amore per la scienza. Mi sembra uno scopo molto lodevole e utile, non c'è dubbio, commentò Mrs. Gibson prudente. Direi di sì, considerato da un punto di vista sociale, ma per noi privatamente è un bel impiccio, perché trattiene Lord Hollingford in città o tra Londra e Cambridge, tutti e due posti noiosi e vuoti, proprio quando noi abbiamo bisogno di lui alle torri. La cosa avrebbe dovuto essere decisa molto tempo fa e c'è il rischio che il lascito ci si estingua. Gli altri due amministratori sono scappati sul continente, nutrendo, hanno detto, la massima fiducia in Lord Hollingford, ma in realtà scansando le loro responsabilità. Tuttavia, credo che lui gradisca il compito, perciò non dovrei brontolare. Pensa che la sua scelta del candidato sarà molto felice. Il candidato, poi, proviene da questa contea, è il giovane Hamley di Hamley. Se solo riuscirà a convincere il suo college a lasciarlo partire, perché è fellow al Trinity, signor Wrangler o qualcos'altro, e quelli non sono così sciocchi da mandare il loro fuori classe a farsi sbranare dai leoni, dalle tigri. Deve trattarsi di Roger Hamley, esclamò Cinzia con gli occhi brillanti e le guance in fiamme. Non è il figlio maggiore? Non può essere definito Hamley di Hamley, precisò Mrs. Gibson. Il candidato di Hollingford è un fellow del Trinity, come ho detto prima. E allora è Roger Hamley, insistette Cinzia, che si trova a Londra per affari. Che notizia per Molly quando tornerà a casa? Beh, che cosa c'entra Molly con questo? Chiese Lady Harriet. Guardando in volto Mrs. Gibson per avere una risposta. Mrs. Gibson replicò con un'occhiata espressiva e molto loquace all'indirizzo di Cinzia, che tuttavia non la percepì. Oh no, certo che no. E Mrs. Gibson fece leggermente cenno con la testa verso la figlia, come per dire, almeno non lei. Lady Harriet iniziò a osservare la graziosa Miss Kirkpatrick con interesse tutto nuovo. Suo fratello aveva parlato in modo tale del suo giovane Mr. Hamley che tutti coloro che erano legati alla Fenice meritavano di essere guardati. Poi, come se la menzione del nome di Molly gliel'avesse riportata alla mente, Lady Harriet disse: E dov'è Molly? Dove è stata per tutto questo tempo? Mi piacerebbe vedere la mia piccola mentore. Ho sentito dire che è molto cresciuta da allora. Quando comincia a spettegolare con le signorine Browning, non sa mai quando è ora di tornare a casa, disse Mrs. Gibson. Le signorine Browning? Ah, sono così felice che le abbiate nominate. Ci sono molto affezionata. Pixie e Flapsy. Posso chiamarle così finché Molly non c'è? Passerò a trovarle prima di andare a casa e allora forse vedrò anche la mia piccola cara Molly. Sapete, Claire, mi sono proprio incapricciata di quella ragazza. Così, Mrs. Gibson, dopo tutte le sue precauzioni, dovette arrendersi al fatto che Lady Harriet si congedasse mezz'ora prima di quanto avrebbe altrimenti fatto, per abbassarsi, come disse Mrs. Gibson, a far visita alle signorine Browning. Ma Molly se n'era andata prima che Lady Harriet arrivasse lì. Molly intraprese la lunga passeggiata verso Holly Farm per ordinare le susine in segno di penitenza. Si era sentita colpevole d'ira per essere stata mandata via di casa da una manovra così palese come quella architettata dalla matrigna. Naturalmente non incontrò Cinzia, così si spinse da sola lungo i bei viottoli fiancheggiati dall'erba e dalle alte siepi, così diverse dai precetti stilistici dell'agricoltura moderna. All'inizio ella si tormentò chiedendosi fino a che punto fosse giunto giusto trascurare le piccole mancanze domestiche, le trame, le distorsioni della verità che avevano dominato in famiglia sin dalle seconde nozze di suo padre. Sapeva di essere colta molto spesso dalla voglia di protestare, ma non lo faceva, per il desiderio di risparmiare a suo padre qualsiasi discordia. Inoltre, vedeva sul suo viso che anche lui si accorgeva occasionalmente di certe cose che lo addoloravano, in quanto dimostravano che il modello di comportamento della moglie non era così alto come gli sarebbe piaciuto. Molly si domandava se questo silenzio fosse giusto o sbagliato, con l'intolleranza tipica di una ragazza, la mancanza di esperienza, che le insegnasse la forza delle circostanze e l'assenza di tentazioni. Ella si era trovata spesso sul punto di comunicare alla matrigna alcune energiche verità domestiche. Ma probabilmente l'esempio di silenzio datole dal padre e spesso qualche piccola cortesia da parte di Mrs. Gibson, la quale a modo suo, e quando era di buon umore era molto gentile con Molly, le aveva fatto trattenere la lingua. Quella sera a cena, Mrs. Gibson raccontò della conversazione avvenuta tra lei e Lady Harriet, conferendole come al solito una forte colorazione personale e riportando quasi tutto ciò che era accaduto, implicando tuttavia che era stato detto molto di più, ma in tono così puramente confidenziale che ella si sentiva obbligata da un senso dell'onore a non ripeterlo. I suoi tre ascoltatori la seguirono senza interromperla più di tanto, anzi, senza prestare una grande attenzione a ciò che diceva, fino a che lei giunse al fatto dell'assenza di Lord Hollingford, che si trovava a Londra, e alle sue motivazioni. Roger Hamley in partenza per una spedizione scientifica, esclamò Mr. Gibson improvvisamente sveglio e vivace. Sì, perlomeno non è ancora deciso definitivamente, ma poiché Lord Hollingford è l'unico amministratore dell'ascito che se ne interessi ed è figlio di Lord Cavenor, è una cosa quasi certa. Penso di dovermi informare sulla questione, osservò Mrs. Gibson. Mr. Gibson, e tornò in silenzio, tenendo però da quel momento in poi le orecchie ben aperte. Quanto starà via? Chiese Cinzia. Ci mancherà moltissimo. Le labbra di Molly formarono un sì di conferma a questo commento, ma non si udì il consuono. Le sue orecchie rimbombavano, come se gli altri continuassero a chiacchierare, ma le parole che pronunciavano suonassero indistinte e confuse. Erano solo congetture e non interferivano con l'unica grande notizia. Al resto della compagnia ella apparve intenta a consumare la sua cena come al solito, e se era silenziosa, significava che c'era un ascoltatore in più per il fluire delle ciarle di Mrs. Gibson e per le osservazioni di Mr. Gibson e di Cinzia. Capitolo 33. Brillanti prospettive. Un paio di giorni più tardi, Mr. Gibson si prese il tempo di cavalcare fino a Hamley. Desiderava conoscere particolari più esatti in merito al progetto di Roger di quanti potesse ottenerne da fonti estranee ed era piuttosto perplesso sull'opportunità della propria interferenza. Il caso era il seguente. I sintomi di Osborne erano, secondo l'opinione di Mr. Gibson, segnali di una malattia fatale. Il dottor Nicholl si era detto in disaccordo con lui su questo punto e Mr. Gibson sapeva che l'anziano medico aveva una lunga esperienza ed era considerato molto abile nella professione. Eppure riteneva di essere nel giusto e se le cose stavano così, il disturbo era tale da poter durare per anni nella medesima condizione del presente. Altrimenti avrebbe potuto mettere fine alla vita del giovane nel giro di un'ora, di un minuto. Suppongo che Mr. Gibson avesse ragione. Sarebbe stato un bene che Roger si trovasse lontano, dove nessuna improvvisa convocazione della sua presenza avrebbe potuto raggiungerlo. Lontano, per 2 anni. Tuttavia, se la questione era conclusa, l'interferenza di un medico avrebbe potuto accelerare proprio la paura del male. E dopotutto il dottor Nichols poteva avere visto giusto e i sintomi potevano dipendere da una qualche altra causa. Potevano? Sì, era probabile. No. Mr. Gibson non riusciva a convincersi a rispondere di sì a una quest'ultima formazione della frase. Perciò continua a cavalcare, meditabondo, le redini allentate, la testa un poco inchinata. Era una di quelle bellissime calme giornate d'autunno, in cui le foglie rosse e gialle fanno da sostegno alle ragnatele brillanti di rugiada, in cui le siepi abbondano di rovi rampicanti, carichi di more mature. Quando l'aria è piena dei fischi d'addio e dei canti degli uccelli, chiari, rapidi, non i lunghi trilli a squarciagola della primavera. Quando il frullio delle ali, delle pernici, si odia sui campi di stoppia, mentre gli zoccoli schioccano sul selciato. Quando qui e là le foglie fremono e volteggiano al suolo, anche senza il minimo alito di vento. Il medico di campagna sentiva la bellezza delle stagioni, forse più della maggioranza degli uomini. La vedeva di più di giorno, di notte, nella tempesta con il sole oppure con il tempo immobile, dolce e nuvoloso. Non parlava mai di ciò che provava sull'argomento. Invero, egli non metteva mai in parole le sue emozioni, neanche con se stesso. Ma semmai il suo umore inclinava al sentimentale, era in giornate come quella. Raggiunse il cortile delle stalle. Lasciò il cavallo a uno degli uomini ed entrò in casa da un ingresso laterale. Nel corridoio si imbatté nello squire. Eccellente Gibson, qual buon vento vi porta qui? Volete qualcosa per pranzo? È in tavola, ho lasciato la sala proprio in questo momento. E continuò a stringere la mano di Mr. Gibson finché non l'ebbe collocato, fin in niente affatto restio alla mensa ben fornita. Com'è questa notizia che ho saputo di Roger? Incominciò Mr. Gibson subito a capofitto nell'argomento. Dunque avete sentito, eh? È straordinario, non è vero? È un ragazzo di cui andare fieri il vecchio Roger. Roger il calmo. Pensavamo che fosse lento, ma mi sembra che chi va lento e sicuro vinca la corsa. Ma ditemi, cosa avete sentito? Quanto si sa in giro? No, dovete avere il bicchiere pieno. È una birra vecchia, come oggi non ne facciamo più. Ah, l'età di Osborne. L'abbiamo preparata quell'autunno e l'abbiamo chiamata la birra del giovane Squire. Pensavo di aprirla per il suo matrimonio, ma non so quando sarà. Così l'abbiamo stampata adesso in onore di Roger. Lo squire anziano aveva evidentemente goduto della birra dello squire giovane ai limiti della prudenza. Era davvero come egli l'aveva definita, folle. forte come il brandy, e Mr. Gibson dovette sorbirla con molta attenzione mentre consumava il suo roast beef freddo. Bene, e cosa avete sentito? C'è molto da sapere, e tutte buone notizie, anche se so che il ragazzo mi mancherà. Non sapevo che fosse deciso, ho sentito solo che la cosa si stava preparando. Beh, si stava solo preparando, come dite voi, fino a martedì scorso. Lui non mi ha mai fatto sapere nulla, dice che pensava che mi sarei agitato, pensando ai pro e ai contro. Così non ho mai saputo una parola, finché non ho ricevuto una lettera da Milord Hollingford. Dov'è? Tirando fuori una grande cartella di pelle nera, ricettacolo di ogni sorta di incartamenti, e inforcando gli occhiali, lesse ad alta voce le intestazioni. Misurazioni del legname, cancellate nuove, medicamenti per le vacche, dal contadino Hayes, conti di Dobson, ecco qua. Ora leggete la lettera, concluse, porgendola a Mrs. Gibson. Era una lettera risoluta, attenta, intelligente, che spiegava all'anziano padre con un linguaggio molto semplice i servizi richiesti dai termini del testamento, del quale Lord Hollingford e altre due o tre persone erano gli esecutori. La generosa disponibilità di spesa e l'ancor più generosa ricompensa per la missione, che avevano tentato molti uomini di considerevole fama offrirsi come candidati per l'incarico. Lord Hollingford proseguiva dicendo che, avendo visto spesso Roger di recente, dal momento della pubblicazione del suo articolo in replica all'osteologa francese, aveva ragione di credere che in lui gli amministratori fiduciari avrebbero trovato, più che in chiunque altro dei candidati che si erano fino ad allora presentati, l'unione dei diversi requisiti. Roger nutriva un profondo interesse per la materia, vantava una forte conoscenza acquisita e allo stesso tempo notevoli capacità naturali di comparazione e di classificazione dei dati. Si era dimostrato un osservatore eccellente e accurato, aveva l'età giusta, era nel fiore della salute e delle forze ed era libero dai legami familiari. Qui, Mr. Gibson si interruppe per una considerazione. Gli interessava relativamente verificare i passi che avevano portato al raggiungimento del risultato. Sapeva già quale fosse quel risultato, ma la sua mente si arrestò di nuovo mentre l'occhio gli cadeva sulla remunerazione offerta, che era davvero molto generosa. E poi egli lesse con attenzione l'alto elogio riversato sul figlio e comunicato in quella lettera al padre. Lo squire aveva osservato Mr. Gibson, aveva aspettato che raggiungesse quel brano e si sfregò le mani dicendo: Sì, ci siete arrivato finalmente. È la parte migliore, vero? Dio benedica il ragazzo. E da un week, badate bene, il che la rende ancora più bella. E non è ancora finita, dico Gibson. Credo che la fortuna per me stia girando alla fine, aggiunse, passandogli un'altra lettera da leggere. Questa è arrivata solo stamattina, ma ho già preso provvedimenti a riguardo. Ho fatto chiamare immediatamente il caposquadra dei lavori di drenaggio. Eh sì, e domani, a Dio piacendo, saranno di nuovo all'opera. Mr. Gibson lesse la seconda lettera, che veniva da Roger. In certa misura questa ripeteva modestamente ciò che aveva scritto Lord Hollingford, con una spiegazione del perché un passo così decisivo fosse stato intrapreso senza consultare lo squire. Innanzitutto, il giovane non voleva che il padre stesse in ansia. In secondo luogo, sentiva come nessun altro poteva sentire in sua vece che accettare quell'offerta lo avrebbe iniziato a un genere di vita che egli sapeva essere la più adatta a lui. E poi tutto veniva tradotto in termini di affari. Roger diceva di conoscere bene le sofferenze che il padre aveva affrontato quando aveva dovuto abbandonare i lavori di bonifica per mancanza di soldi, che lui, suo figlio, era stato messo immediatamente nelle condizioni di ottenere del denaro, offrendo come garanzia la remunerazione che avrebbe ricevuto a compimento dei suoi 2 anni di missione e che aveva subito stipulato un'assicurazione sulla vita, in modo da provvedere a ripagare la somma che aveva raccolto qualora non fosse sopravvissuto per tornare in Inghilterra. Concludeva che il denaro preso a prestito con quella garanzia sarebbe stato immediatamente inoltrato a suo padre. Mr. Gibson posò la lettera senza dire per un po' nemmeno una parola, poi affermò: Dovrà pagare una bella somma per aver assicurato la sua vita, visto che se ne va oltremare. Ha i soldi della borsa di studio, precisò lo Squire, un po' depresso per l'osservazione di Mr. Gibson. Sì, questo è vero, ed è un giovanotto forte, lo so. Vorrei poterlo dire a sua madre, fece lo Squire sottovoce. Sembra tutto sistemato ormai, disse Mr. Gibson, più in risposta ai propri pensieri che alle parole dello Squire. Sì, ripete quest'ultimo, e non lasceranno che l'erba gli cresca sotto i piedi. Dovrà partire non appena avrà pronte le sue trappole scientifiche. Vorrei quasi che non andasse. Sembra che non approviate, dottore. Sì, invece, rispose Mr. Gibson in tono più allegro. Adesso non si può evitare senza far danno, pensò. Beh, Squire, è un grande onore avere un figlio del genere. Vi invidio, ecco cosa. Un ragazzo di 23-24 anni che si distingue per più di un aspetto, è semplice, affezionato ai suoi come ogni ragazzo dovrebbe essere, niente affatto superbo. Sì, come figlio per me vale due volte Osborne, che si è dato aria per tutta la vita senza alcuna ragione, si potrebbe dire. Andiamo, Squire, non voglio sentir dire nulla contro Osborne, possiamo elogiare l'uno senza attaccare l'altro. Osborne non gode dell'ottima salute che ha consentito a Roger di lavorare come ha fatto. Ho incontrato l'altro giorno un uomo che conosce uno dei suoi tutor al Trinity e naturalmente abbiamo incominciato a discorrere su Roger. Non succede tutti i giorni di poter contare un senior Wrangler fra i propri amici e io sono orgoglioso del ragazzo quasi quanto voi. Questo Mr. Mason mi ha riferito che il tutor ha detto che solo la metà dei successi di Roger è ascrivibile alle sue capacità intellettuali. L'altra metà dipende dalla sua salute perfetta, che gli permetteva di lavorare più duramente e con maggiore costanza della maggior parte degli uomini senza soffrirne. Ha affermato che in tutta la sua esperienza non ha mai incontrato nessuno con eguale disposizione alla fatica mentale e che Roger riusciva a tornare ai suoi studi con rinnovata energia dopo pause di riposo più brevi di quelle degli altri. Ora, io che sono un dottore, attribuisco per buona parte la sua superiorità alla causa materiale di una costituzione eccellente che Osborne non ha. Osborne l'avrebbe se trascorresse più tempo all'aperto, dichiarò lo Squire di malumore. Ma a parte quando ciondola fino a Hollingford, a lui non interessa affatto uscire di casa. Spero, continuò con un'improvvisa occhiata sospettosa all'indirizzo di Mr. Gibson, che non stia dietro a una delle vostre ragazze. Non voglio offendervi, capitemi, ma lui erediterà la tenuta e non sarà libero. Deve sposarsi per soldi. Non penso che lo consentirei a Roger, ma Osborne è il maggiore, capite? Mr. Gibson arrossì, per un momento si offese, poi la parziale verità di ciò che lo Squire aveva detto si presentò alla sua mente ed egli ricordò la loro antica amicizia. Così parlò con calma, anche se brevemente. Non penso ci sia niente del genere all'opera. Sapete che non sono molto a casa, ma non ho mai visto né sentito nulla che mi faccia supporre che esista qualcosa di simile. Quando così sarà, ve lo farò sapere. Ora, Gibson, non vi offendete. Sono felice che i ragazzi abbiano una casa piacevole dove andare e ringrazio voi e Mrs. Gibson che la rendete così gradevole. Solo, tenete distante l'amore. Non può venirne niente di buono, ecco tutto. Non credo che Osborne guadagnerà un solo penny per mantenere una moglie finché io sarò in vita. E se morissi domani, lei dovrebbe portare del denaro per liberare la proprietà dai debiti. E se parlo come non avrei dovuto fare prima, un po' bruscamente o qualcos'altro, beh, è perché sono stato tormentato da tante preoccupazioni di cui nessuno sa nulla. Non mi offendo, affermò Mr. Gibson, ma intendiamoci chiaramente. Se non volete che i vostri figli vengano a casa mia come fanno, diteglielo voi stesso. A me i ragazzi piacciono e sono felice di vederli, ma se vengono dovete accettarne le conseguenze, qualsiasi siano, e non prendervela con me, neanche con loro, perché chi lo sa cosa può nascere dalle frequentazioni fra due giovanotti e due signorine. E per di più, anche se come ho detto, non vedo al momento niente del genere che voi temete e vi ho promesso di mettervi al corrente dei primi sintomi che noterò. Tuttavia non mi spingerò più in là di così. Se in futuro ci sarà un attaccamento, io non interferirò. Non mi dispiacerebbe poi tanto se Roger si innamorasse della vostra Molly. Lui può combattere per se stesso, vedete? Lei è una ragazza insolitamente buona. La mia povera moglie le voleva tanto bene, disse lo squire. E a Osborne è la proprietà che sto pensando. Beh, allora ditegli di non avvicinarsi a noi. Mi dispiacerà, ma voi sarete al sicuro. Ci rifletterò. Ma è difficile avere a che fare con lui. Monto sempre in collera prima di riuscire a dirgli quello che penso. Mister Gibson stava lasciando la sala, ma a queste parole si voltò e posò la mano sul braccio dello squire. Accettate il mio consiglio, squire? Come ho detto, per ora nessun danno è fatto. A quanto ne so, prevenire è meglio che curare. Parlate con Osborne, ma fatelo gentilmente subito. Capirò se non mostrerà la sua faccia a casa mia per qualche mese. Se gli parlate gentilmente, accetterà il vostro consiglio come quello di un amico. Se lui può assicurarvi che non esiste alcun pericolo, naturalmente tornerà da noi come al solito e quando gli aggraderà. Era un'ottima cosa dare allo squire questo buon consiglio, ma già che Osborne aveva già contratto quel genere di matrimonio che il padre deprecava sopra ogni altro, la cosa non funzionò come Mr. Gibson si era augurato. Lo squire introdusse la conversazione con il solito autocontrollo, ma si irritò quando Osborne negò il diritto del padre di interferire in qualunque matrimonio egli potesse contemplare. Lo negò con un certo grado di ostinazione e di stanchezza a proposito dell'argomento, e questo scatenò uno degli attacchi di collera dello squire, e sebbene in seguito, riflettendoci, quest'ultimo ricordasse di aver ottenuto la promessa solenne del giovane di non pensare né a Cinzia né a Molly come possibili mogli, tuttavia padre e figlio avevano affrontato uno di quegli alterchi che contribuiscono ad allontanare gli uomini per la vita. Ciascuno aveva detto all'altro parole amare, e se l'affetto fraterno non fosse stato così sincero tra Osborne e Roger, anche loro due avrebbero potuto separarsi in conseguenza degli esagerati e poco giudiziosi paragoni che lo squire aveva fatto tra i loro diversi caratteri e comportamenti. Ma come Roger, nell'infanzia aveva amato troppo Osborne per essere geloso delle lodi e dell'amore che il primogenito, un ragazzino bello e brillante, aveva ricevuto, a discapito della propria goffaggine e della propria lentezza. Così ora Osborne lottava con tutte le sue forze contro qualunque sentimento di invidia e di gelosia. Ma i suoi erano sforzi consapevoli, mentre quelli di Roger erano stati la semplice conseguenza dell'affetto. E la fine per il povero Osborne fu che cadde nel malumore e nella depressione della mente e del corpo. Sia lui che il padre, però, nascosero i loro sentimenti in presenza di Roger. Quando quest'ultimo tornò a casa, appena prima di salpare, indaffarato e felice, lo squire si lasciò influenzare dalla sua contagiosa energia e Osborne si tirò su e si rallegrò. Non c'era tempo da perdere. Roger era diretto verso climi caldi e doveva approfittare di tutti i possibili vantaggi dei mesi invernali. Prima si sarebbe recato a Parigi per avere dei colloqui con gli scienziati di laggiù. Parte del suo equipaggiamento, degli strumenti, eccetera, lo avrebbe raggiunto a Le Havre, dal cui porto si sarebbe imbarcato dopo aver concluso i suoi affari nella capitale. Lo squire apprese di tutti questi progetti dell'organizzazione e tentò persino di intavolare dopo cena delle conversazioni che indagassero le questioni coinvolte nelle ricerche che il figlio stava per intraprendere. Ma il soggiorno di Roger a casa non poteva durare più di 48 ore. L'ultimo giorno egli si recò a cavallo a Hollingford, prima di quanto fosse necessario, per prendere la carrozza per Londra allo scopo di salutare la famiglia Gibson. Per un certo periodo era stato troppo attivo e occupato per avere il tempo di riservare grandi pensieri a Cinzia, ma non c'era bisogno di rinnovare le sue meditazioni sull'argomento. L'immagine di lei, quale premio per cui lavorare, da servire per 7 anni e ancora 7, era sicura e sacra nel suo cuore. Era brutto questo andarsene via e doverla salutare per 2 lunghi anni, ed egli si chiese ripetutamente durante la cavalcata se fosse giustificato rivelare alla madre, e forse a lei stessa, così dolce, quali fossero i suoi sentimenti senza aspettarsi, anzi censurando una risposta da parte sua. Allora, comunque, la giovane avrebbe saputo quanto fosse teneramente amata da colui che era lontano. Come in tutte le difficoltà e i pericoli egli pensasse a lei come la stella polare alta nei cieli e così via. Infatti, con tutta la rapidità dell'immaginazione e la banalità della fantasia di un innamorato, egli la chiamava stella, fiore, ninfa, strega, angelo, sirena, usignolo, incantatrice, man mano che l'uno o l'altro di questi appellativi si presentavano alla sua mente.